informazioni, testimonianze, riflessioni, musica. La vita quotidiana. In onda. Per saperne di più. Con Elia Xodo. Buongiorno a tutti, bentrovati. Prima di presentarvi la persona con noi oggi, vi voglio ricordare il numero di telefono che è 338-522-3006. Ve lo ripeto, 338-522-3006. A questo numero potete telefonare oppure inviare un SMS, un messaggio oppure un WhatsApp inerente a quello che state ascoltando. Ed ora vi presento la persona con noi, non sarà una diretta telefonica, ma di presenza. Abbiamo con noi in studio Francesco Maggio, che è da tanto tempo che non l'avevamo con noi. Qualche anno. In effetti. Qualche anno. Forse tanti anni, ma non so, ma è tanto. Comunque abbiamo il piacere di averlo qui con noi oggi. Diciamo che il motivo per cui è qui, proprio per parlare di un argomento, di un tema abbastanza importante, quello che è accaduto nell'Università Statale di Milano, che ha creato un po' di scalpore, dove hanno letto il Corano, adesso non stiamo a spiegare, sì. Però comunque hanno letto il Corano in un'iniziativa culturale. Sì, di un gruppo, giusto, un sì. Gruppo ha avuto questa iniziativa. E quindi noi abbiamo pensato che la persona migliore con cui possiamo sviscerare questo e parlare di questo sia proprio il volto di Meta, no? Lo sì, storico volto lo storico di volto, Meta. Sì, ok, Francesco Maggio, e che quindi è qui con noi e vogliamo proprio parlare di questo. Ma prima di parlare di questo, Francesco, siccome è da un po' che tu non vieni e sicuramente molta gente ti conosce, ma magari altri no, e quindi magari farti conoscere un attimino, parlare di te, rappresentarti un attimino per capire sì. Chi è Francesco Maggio, sì. Ok? Grazie Elia, innanzitutto voglio cogliere questo momento per salutare tutti gli ascoltatori, certo. Le ascoltatrici, mi presento, sono da 32 anni che mi occupo, ho la chiamata tra i musulmani, sul livello internazionale. Vivendo in Italia, perché sono italiano, mi occupo della missione tra i musulmani e anche di concetti missiologici, come dovremmo approcciare i musulmani dal punto, certo, di vista biblico. Certo. Oggi purtroppo la società è sempre più fluida, Elia, e quello che io faccio, perché il Signore mi ha comandato di farlo, è qualcosa che urta la sensibilità nel mondo, perché ormai c'è un atteggiamento generale che dovremmo essere tutti uguali, che abbiamo tutti le stesse credenze, e perché mai uno dovrebbe convertire un altro alla religione, certo, stessa? Sì. Ma siamo impazziti qua, ma certo. Siamo impazziti. Cosa vuoi convertire una persona? E quello significa allora zero evangelizzazione, zero missione, zero obbedienza al grande mandato, zero di tutto. Dall'altro lato c'è un'altra cosa, che mentre noi siamo divenuti teneri, flaccidi, mollicci dal punto di vista dell'identità, perché questa identità quello che stiamo parlando di oggi, si tratta di un'identità religiosa dei nostri giovani italiani preoccupante, traballante, in tempesta. Come mai dei giovani italiani all'università, invece di leggere la Bibbia, certo, leggono il Corano? Certo. Allora, questo fa preoccupare. Certo. E vedete, l'avanzamento della religione di Allah è un dovere di ogni musulmano nel suo piccolo. Sì, ma allora Francesco, sono tutti terroristi? Non è vero che sono tutti terroristi. Però tutti non possono opporsi all'avanzata dell'Islam. Quindi io posso anche non oppormi all'avanzamento del regno di Dio, cristianamente sì, parlando, certo, però non mi oppongo. Cioè, diciamo, tu potresti non fare la tua parte all'avanzamento del regno di Dio, però lì tutti devono fare la loro parte. Esatto. Mm. Quindi nel mondo musulmano tutti non devono opporsi all'avanzamento del regno di Allah sulla terra. Quindi non tutti, quindi sono pericolosi, maneschi, bombaroli, così, certo, un vecchio certo, termine certo, simpatico. Sì, sì. Non sono tutti bombaroli. Ascolta Francesco, una cosa, poi tu continua poi a parlare di questo perché è interessante, ma quando tu hai sentito di essere spinto verso di loro nel dover parlare con loro, cioè come è accaduta questa cosa? È accaduto per caso, perché io avevo appena mi convertì dalle tenebre alla luce, sì, ed ero nel mondo, ero una persona che usava i media, sì, trasmettevo su Rete A, Canale 5, no, Rete A e altre TV commerciali, sì, perché presentavo dei prodotti che non voglio parlare questo pomeriggio, okay, prodotti che non fanno proprio bene alla salute mentale, certo, di nessuno. Certo. Okay. Però quando poi mi sono convertito, avendo la parola facile, perché io credo nella parola, sì, tu credi nella parola, certo, tutto lo staff della radio CRC crede nella parola, certo, crede nella parola e nel microfono. Sì, esatto. Certo. Okay. Quindi io credevo nella parola, credo nella parola, e allora quando mi sono convertito ho avuto il privilegio, tramite amici molto vicini a me, di essere introdotto in una radio commerciale milanese, sì, ambrosiana, e lì avevo il mio spazio per parlare di Cristo, sì, ok, quindi era da pochi mesi, ero convertito da pochi mesi, quindi ero esuberante, esuberantissimo, okay, e ancora gattonavo nella fede. Quindi, però, quello che avevo, quando Gesù dice, no, all'indemoniato, sì, di Gerasa, dice: torna a casa e di a tutti quello che oggi Cristo ha fatto per, certo, te, Dio ha fatto per te. Nient'altro che questo. Ora, quindi, un giorno facevo una trasmissione sull'Islam, per caso, e così ho scoperto che i musulmani sono, per quanto concerne il cristianesimo, sono ignoranti. Per quanto concerne il cristianesimo. Quello mi ha è sopraggiunto in me un peso per la loro salvezza. Ho sentito proprio questo. Un peso. E quindi, anche se la radio era intenta a evangelizzare gli italiani, sì, quella trasmissione sì, particolare, intervistando i musulmani in Piazza Duomo, mi sono mi ricordo accorto questa cosa di Piazza Duomo. Ecco, l'ho detto qualche, sì, anno fa. Sì. L'ho detto qualche anno fa qui in radio. Sì. Il Signore ha toccato il mio cuore, sì, e lì è iniziato l'opera, la chiamata di Cristo in me verso il mondo musulmano. Sì, sì. Però non sono diventato soltanto un evangelista, con gli anni sono diventato un docente sull'Islam. Certo. E sono uno studioso sull'Islam, sì, perché bisogna rovesciare come calzino qualsiasi fonte per sapere come meglio raggiungere l'altro. Certo. Oggi ho fatto un ultimo libro, edito dalla CRC, no scusa, dalla CLC. CLC, okay. CLC, vabbè, come va si bene, dice, testimonianza occulta. La CLC ha pubblicato un mio libro adesso, che si chiama La verità sotto attacco. Okay. È un libro ai quali contiene delle domande ai quali i musulmani non possono, non sono in grado di rispondere. E allora a quel punto non rimane altro che rivoltarsi verso la Bibbia, cioè rivolgersi, volevo dire, verso la, cioè, Bibbia. Cioè loro troveranno delle domande ostiche, dove loro non riusciranno a rispondere, non riusciranno, perlomeno non avranno la soddisfazione, non di riusciranno a dimostrare che Maometto è vissuto. Certo. Quindi se il fondatore dell'Islam non è vissuto, certo, allora anche quello che credono trema sotto, sì, i loro piedi. Sì, sì. E quindi o si danno all'ateismo o si devono naturalmente mettere l'anima in pace e cominciare a leggere la Bibbia. Questo libro è La verità sotto attacco. Lo trovate in tutte le librerie evangeliche più vicine a casa vostra, in vendita, perché è distribuito dalla CLC. Sì, sì, la conosciamo. Ora, a parte questo, ok. Quindi tornando al discorso, sì, della... Adesso torniamo subito, sì, all'università. Stavi raccontando un attimo di te, infatti esatto, volevo proprio capire il perché... Come ti sei appassionato proprio? No, ma è giusto, diciamo, per i nostri ascoltatori. Perché sei stato attirato, sì, nel doverti. Perché tu hai dovuto anche comunque lavorare su te stesso per sapere come approcciarti con loro, come parlare con loro. Sì. Mi ricordo che, sì, tantissimo tempo fa l'hai raccontato. Insomma, c'è anche un modo per fermare una persona. Sì. Perché, sì, tu a Milano li fermavi anche. Mi fermavo? No, li fermavi. Li fermavo, per sì, parlare. Sì, sì, li fermavo per parlare, certo. Vero? Sì, sì. Quindi non è una cosa sicuramente da tutti. Li fermavo e li sgridavo. E li sgridavi, sì, e loro ti ascoltavano. E loro accettano quando sono sgridati, accettano. Accettano? Sì. senza arrabbiarsi. No, perché è fatto in un modo idoneo per la loro mentalità. Ecco, va bene. Allora, parliamo un attimino di quello che è accaduto all'Università di Milano. Riprendiamo sì, un attimino sì, questo, su questo evento dell'Università di Milano, questa iniziativa, diciamo, come la commenteresti quindi tu questa iniziativa di questo gruppo di ragazzi che hanno deciso di leggere il Corano durante un tempo di lezione, non so se sia durato un'ora o due ore, hanno anche pregato, questo è quello sì, che ho letto proprio, sì, che hanno anche pregato. Sì. In un'aula. In un'aula proprio hanno portato avanti. Sì, allora, un gruppo di studenti si è, come dire, asseragliati in classe. Sì, sì. Hanno letto il Corano in italiano. Sì. E in una forma di ricerca forse spirituale, religiosa, non lo sappiamo, sì, però questo a me mi fa paura, Elia. Certo. A noi tutti italiani deve preoccupare questo. Certo. Perché si parla tanto di laicismo nelle scuole, sì, dove non si può mettere un crocifisso appeso sulla parete, dove non bisogna portare, declamare quello che tu credi dal punto di vista di fede, il laicismo. Però qui, in questo modo, quegli stessi studenti dell'università qui hanno tanto caro questi valori, li chiamano valori, però in quella sede li hanno mandati in aria. Sì, qualcuno ha scritto che l'hanno letto in arabo addirittura. Sì, sicuramente c'era qualche arabo. In arabo, sì, sì. Perché ci sono tanti italiani nati qua che sono di origine araba. Sì, sì, ha detto che l'hanno letto. E poi è stato ripreso comunque da tanti giornali. Sì, il giornale ne ha parlato. Allora, quindi mi solleva degli interrogativi sulla coerenza delle politiche universitarie riguardanti la laicità. Certo. Giusto? Certo. Ora, sono stati banditi i crocifissi, è stato bandito il Natale. Sì. Tante cose sono state bandite, sì, però ora entra l'Islam nelle università. Sì. E guai se diciamo qualcosa. Certo. Quello fa tremare sì, sì, tutti noi. Perché significa che gli italiani, certi italiani, giovani di oggi, la loro identità culturale, non parliamo di religione, la loro identità culturale e religiosa, sì, è andata in frantumi. Certo. Come? Non vanno più all'oratorio, 50 anni fa si andava all'oratorio, certo, no? I nostalgici, certo, io ho 70 anni. Certo. Allora, no, oggi non si va forse nella scuola coranica della moschea, magari vanno pure in moschea questi qua. Capisci? Cioè, l'identità religiosa giovanile dei nostri connazionali è in forte tempesta. Certo, è molto, ma ci domandiamo proprio il perché ci sia stata questa necessità di dover fare questo. Sui giornali l'hanno detto, sorvolerò, in segno di sostegno, in segno di simpatia, sì, per quello che sta succedendo in guerra in quelle parti là. Sì. I bambini, non i bambini. Ok, no? Ok. In segno di sostegno. Okay. Però questo, quello che hanno detto, sì, ci fermiamo a quello che hanno detto. Certo, certo. Però noi non facciamo propaganda politica nelle università, certo, per quando i cristiani sono perseguitati, ora ne hanno uccisi tantissimi. Ora, per esempio, ne hanno uccisi tantissimi a Mali. Mm-hmm. 30 persone sono state uccise dalle orde islamiche, di quello non si parla mai nelle università. Quindi volevo richiamare la coerenza. Secondo te, Francesco, poi magari rispondiamo fra un po' a questa domanda, perché fra poco mandiamo un brano musicale. Secondo te sta cambiando proprio l'orientamento spirituale, religioso, come lo vogliamo chiamare, perché per tanti è religioso, per molti altri è spirituale, no? Questo orientamento sui giovani? Allora, devi tenere presente che in Italia tanti sono nati qui ormai, figli degli immigrati di 50 anni fa. Sì. Quindi nelle università abbiamo una frammentazione sociale, sì, una frammentazione etnica, sì, perché non sono puramente italiani col pedigree qua ormai. Certo. Hai capito? Okay. Allora, ci sono tante persone di etnia islamica, certo, da tutti i continenti, dall'Africa, sì, dall'Asia, dal Medio Oriente, dal Nord Africa. Quindi questo ha portato una frammentazione anche culturale anche culturale, nelle, certo, università. Certo. E questo è quello che stiamo tremando noi, di vedere che sta accadendo qualcosa. Sta accadendo qualcosa. C'è un progetto nell'Islam che c'è da... Te lo posso far raccontare dopo il brano musicale? Sì, dai. Non ti interrompo. Sì, dai, così non annoiamo i nostri amici. Ok, a più tardi. Voglio ricordarvi il numero di telefono, che è 338-522-3006, ve lo ripeto, 338-522-3006. A questo numero potete telefonare per chiedere qualunque cosa inerente a quello che stiamo discutendo, al tema così importante di oggi, e comunque potete anche inviare un SMS oppure un WhatsApp. Ed ora ascoltiamo un brano musicale, a tra poco, grazie. There's revival and it's spreading like a wildfire in my heart. A Sunday morning, hallelujah, and it's lasting all week long. Can you hear it? Can you feel it? It's the rhythm of a gospel song. Oh, once you choose it, you can't lose it. There ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been restored. That I wander, turn to mountains that I can't climb. Oh, you are with me, you never leave me. Oh, cause there ain't nothing gonna steal my joy. I got an old church choir singing in my soul. I've got a sweet salvation and it's beautiful. I've got a heart overflowing cause I've been restored. Ed eccoci qui dopo il brano musicale. Per le persone che si fossero appena messe in ascolto, voglio ricordare che abbiamo con noi Francesco Maggio, sicuramente lo conoscete come volto storico di Meta, e stiamo parlando di quello che è accaduto all'Università Statale di Milano, dove un gruppo di studenti durante il tempo di lezione hanno letto il Corano. Quindi stiamo sviscerando queste cose. Allora, Francesco, sì. Prima del brano musicale stavamo parlando un attimino del pericolo, sì, che si nota, che sorge tra i giovani, certo, no? E tu stavi raccontando ovviamente che oggi abbiamo di tutto, no? Abbiamo, sì, i, sì, giovani da generazioni ormai che ovviamente... Sì, non solo cattolici, sì, nati cattolici, sì, come tanti italiani, sono nati di religione musulmana, sì, e questi stanno proiettando le religioni dei padri, sì, in Italia. Certo. E i nostri giovani, i nostri connazionali, quelli della guardia italiana, sì, pura, così tra, sì, virgolette, in loro è avvenuto un cambio di attitudine. Ok. perché ci sono connazionali e i loro coetanei sono musulmani, non vogliono litigare con i loro coetanei musulmani. E i musulmani, i loro coetanei, sono stati capaci di plasmare un po' con il tempo, con gli anni, le attitudini dei cuori utili a rovesciare i pregiudizi anti-islamici presenti in Italia. Ti ricordi? Noi te abbiamo una, abbiamo, ci ricordiamo perfettamente l'11 settembre. Sì, certo. In quel periodo, per diversi anni, alcuni musulmani rinnegavano di essere musulmani per la paura di essere etichettati, di non trovare lavoro, di essere naturalmente anche perseguiti dal punto di vista razziale. Sì. Con gli anni queste attitudini sono cambiate. In quegli anni là, quando l'11 settembre del 2001, i giovani che oggi sono all'università erano appena nati. Certo. Erano bambini. Certo. Appena nati. Certo. Con gli anni questi hanno portato un cambio di un vento di nuove pensieri, attitudini verso i musulmani stessi, certo, sul livello nazionale, e quindi hanno rovesciato i pregiudizi anti-islamici. In altre parole, hanno conquistato una posizione più favorevole con i non musulmani, certo, rendendoli favorevoli all'Islam e ai musulmani. Stiamo vedendo quello che sta accadendo in questi giorni, no? Senza fare politica, quello che vediamo sui giornali tutti lo sanno, no? Sì. Ecco, ci sono state manifestazioni violente in questi giorni, da parte di giovani. Ma ascolta, Francesco, quello che è successo all'Università di Milano, secondo te, è un fatto, che io sappia, non è così, un fatto isolato solo a Milano, o sono accaduti anche in altre parti del mondo? Che io so quello che leggo, sì, però non è escluso che accada negli Stati Uniti, che accada in altre parti. Ora, l'Università Statale di Milano è importante, certo, è importante, certo, e allora il giornale ne ha parlato. Non è escluso che ne parlino anche in altri circoli circoli universitari. Però vedi, la cosa brutta, ironica, potrebbe essere magari interpretato come un atto di solidarietà per quanto concerne le vicende adesso tra Israele, certo, e Hamas, cioè quello che è. Tuttavia, ma il Corano viene utilizzato senza un'autentica comprensione religiosa. Sì. Non sanno cosa stanno facendo questi ragazzi italiani, non sanno cosa stanno toccando, certo, non sanno cosa stanno citando. Certo. Quindi non c'è una comprensione del testo coranico, dell'Islam. Basta strumentalizzarlo per fini politici. Sì, ma secondo me è la confusione totale dei ragazzi, perché in effetti magari sono anche ragazzi, figli cresciuti in famiglie dove non hanno avuto comunque, non sono stati educati nelle vie del Signore. Certo. Allora, questo però suscita una legittima, grande, solleva una grande preoccupazione a noi grandi di età. Sì. Quindi, anziché la Bibbia, potevano riflettere magari sulla Bibbia, ecco, non sul Corano, oppure tutte e due, par condicio. Avrebbero potuto, ecco, sì, dire, ok, vogliamo capire, paragoniamo, e poi vediamo le differenze. Non hanno invitato uno che potesse avere un contraddittorio. Controbattere quello che loro dicevano. Ma va bene così, questo non è il pensiero universitario, non è il pensiero accademico. Certo. Quello deve sollevare una preoccupazione per me. Sì, e io sono un evangelista. Certo. E io vedo questo come opportunità per portare il Vangelo, certo, agli italiani, che ormai sono diventati, tanti italiani di queste università sono filo islamici, certo, o filo terroristi, diciamo così, perché quando sostengono la Hamas stanno sostenendo quel tipo di pensiero. Comunque molti hanno commentato questo video, no, che hanno visto sui social e così via, e l'hanno commentato in modo negativo quello che è accaduto, tanti dicendo povera Italia, dove stiamo andando a finire, quello che sta succedendo. Però molto probabilmente gli adulti, le famiglie devono farsi due domande, certo, per come, che cosa abbiamo insegnato, che cosa abbiamo, come li abbiamo aiutati questi ragazzi. Noi come Chiesa, noi cristiani sensibili al raggiungimento del grande mandato, all'espletamento del grande mandato, come stiamo facendo anche? E lì c'è un'altra preoccupazione che si sta sollevando. Questi sono coetanei, nostri coetanei, che stanno adesso rimpinguando, direi, le file islamiche, le file islamiche in Italia e sono persone che hanno fra un po' di anni autorevolezza, perché a parte che all'università ci sono tanti disoccupati all'università, e poi quelle persone che fanno università hanno tempo di andare a rovesciarsi nelle strade e fare quello che hanno fatto ultimamente, tante volte anche, ecco, dove sono, dov'è l'impegno verso la scuola? Quindi sono tanti universitari, non tutti, ci voglio fare degli incisi, certo, però tanti universitari stanno bighellonando. Poi, quante di queste persone, se riusciranno ad avere una laurea, poi lavoreranno realmente in quello che si sono prefissi? Se hanno poi sprecato il tempo facendo cortei, scontri civili con la polizia, quante di queste persone riusciranno a ottenere dei risultati? E allora, questo deve sollevare le nostre preoccupazioni. Ci sono poi delle sedi opportune, naturalmente, per segnalare queste cose che sono accadute. Ora sono contento che i giornali ne hanno parlato, perché comunque questa è un disordine anche sociale, quello che sta accadendo, e porta disorientamento anche alla nostra educazione, certo, culturale, sì, alle nostre tradizioni, sì, culturali. Sì, ma in effetti fra le lamentele delle persone che hanno comunque detto povera Italia e così via, qualche altro diciamo ha difeso il diritto di leggere le scritture anche di una religione oltre che a quella cattolica. Queste sono state le risposte, hai capito? Perché io ho scritto all'università. È un paese laico. Io ho scritto a quei giovani del movimento studentesco su Facebook, sì, per dire: ho letto il vostro articolo sul giornale, sì, sono qui, visto che voi avete aperto, dite, avete aperto la porta per un, sì, dialogo, sì, io sono qui per dialogare con voi, no? Confrontiamo il cristianesimo con l'islam, io sono qui, sono pronto. Non hanno, su Facebook non hanno ancora aperto la posta, quindi non c'è nessuno di là. E allora perché mi fai questo annuncio se poi lo metti la mail? Per farti... Cioè tu apri la porta per fare un annuncio come questo, no? Così, sì, suona bello, no? Sì, però, sì, non hai mandato un'email sul giornale dove raggiungerti per confrontarci. Né un telefono, né sui social sei raggiungibile. Quindi è una proposta che trova il tempo che vuole. È un non sasso vogliono, un sasso non lanciato vogliono ragionare, così. Non vogliono dialogare. Non voglio. Io credo nella parola. E credo nel dialogo. E credo che se io vado a parlare con loro, li sbanco. Con, certo, i miei argomenti. Li sbanco. Certo. È un termine così. Che sì, sì, va bene. Però hai ragione tu, perché se avessero voluto dialogare, comunque confrontarsi, avere delle risposte, avrebbero dovuto mettere come entrare in contatto essere con ragione. Loro. Io, certo, ora rinnovo il mio invito tramite Radio CRC a questi miei amici studenti, e confrontiamoci sul piano didattico, sul piano dialettico anche, sì, con, lasciando anche l'apertura naturalmente mentale, rispettando anche le credenze di ciascuno, dimostrando comunque tolleranza verso l'altro che la pensa diversamente. Invitatemi e io sarò lì con voi per confrontare. Vorrei sapere quali versetti avete letto del Corano, sì, perché non sapete cosa state leggendo, sinceramente, non sapete cosa avete letto. E perché avete letto quei versetti? E perché volete far sapere a tutti quanti che siete divenuti così filo-islamici? Cosa ci guadagnate? Ricordate, adesso sembra che siete in luna di miele con l'Islam, ma l'Islam, quando qui non avrà più opposizione, i primi da quali comincerà sarà con voi, perché voi sarete quelli che avete il potere e i primi che saranno, come i globuli rossi, fagocitati, saranno quelli che saranno al potere più degli altri. Quindi non intrattenete questi giochi con l'Islam, perché l'Islam ferisce e fa anche peggio. Quindi state lontani, bambini, dall'Islam. Tu pensi che questo evento possa aver favorito una sorta di possibile introduzione del Corano anche in altre università, dico così? Ma allora, l'Islam... Quello che fa l'Islam, sì, la risposta è sì, Elia, perché l'Islam non fa proselitismi come intendiamo noi, che va nelle piazze. L'Islam avanza con tattiche politicizzate. la tattica del Tamkin, significa, è un meccanismo tattico che nel tempo, negli anni, a lunga scadenza, la meta, lo scopo, viene utilizzato in modo trasversale per far sì che i cuori, le attitudini degli italiani, in questo caso in Italia, cambino in positivo verso l'Islam con il sistema della persuasione. Bene, e si usano anche, questo si chiama Tamkin, è una tattica che è iniziata tanti anni fa, non è ora. Il fatto che questi ragazzini qua vanno all'università e leggono il Corano sono strumentalizzati dal Tamkin, non lo sanno nemmeno loro cosa stanno facendo, si sono resi come delle marionette. Sì, loro non si sono resi conto che è una forma di islamizzazione che loro si trovano dentro senza sapere. E la scusa è stato quello che sta accadendo nella terra di Israele. Questa è la scusa. Tutto è buono. Sì, tutto è buono per iniziare, fare islamizzazione. Per ricreare una situazione, certo. Io sto denunciando queste cose. Sì. E se dei professori musulmani volessero dire dissentiamo, siete liberi di sentire. Ci troviamo, live streaming, anche qui a Radio CRC, e ragioniamo insieme. Certo. Fatemi capire se ho sbagliato qualcosa. Certo. Che cosa possiamo fare noi, un genitore, che cosa può fare per aiutare, per intervenire? Cioè, perché stiamo parlando di qualcosa che è molto importante. Un genitore cosa può fare? Se i genitori non hanno punti fissi di orientamento, già i genitori non possono far nulla. Se i genitori non hanno dei punti fermi moralmente, civicamente, ma se sono dei genitori fluidi, che va tutto bene, anche i figli involontariamente ricalcano le orme dei genitori, più o meno, non sono delle marionette i figli, però ricalcano più o meno le tendenze che trovano nella famiglia. Ascolta Francesco, c'è stata Oriana Fallaci che ha profetizzato qualcosa tanti anni fa, dove ha detto che dopo gli attentati dell'11 settembre del 2001, lei, facendo un'analisi lucida di quello che è accaduto, ha detto che il mondo occidentale non sarebbe più stato lo stesso, che quello era l'inizio, l'inizio di un'islamizzazione verso il mondo occidentale. Mi sono domandata se ci fosse in questo momento che cosa scriverebbe. Sì, allora io credo che Oriana Fallaci ha avuto un'intuizione fortemente pronunciata, che tutti ormai ne parliamo, è un'intuizione forte. Io ho letto i libri di Oriana Fallaci. L'unica cosa che io non mi trovo a disagio, sono i termini con i quali lei descrive queste persone. Sì. Però, quindi, io non sono d'accordo con il modo di scrivere di Oriana Fallaci. Sì, sì, sì. Però lei ci ha azzeccato, ci ha preso. Sì. Sì, ci ha preso. Diciamo che lei ha fatto questo tipo di analisi dopo l'accaduto dell'11 settembre, dice proprio che questo per lei è stato, che il mondo occidentale non sarebbe più stato lo stesso. Prima di Oriana Fallaci, sottoscritto qui, che è davanti a te, prima del 2001, io dicevo le stesse cose prima del 2001. Sì, certo. Però effetti, sotto naturalmente effetti, la riflessione biblica certo. Sotto la riflessione anche del grande mandato, certo. Per proiettare l'interesse della missione ai miei connazionali cristiani. Certo, sì. E questo è stato fatto da me prima del 2001. Sì. Oriana Fallaci è entrata in scena prima del 2001, anche lei, prima del 2001, ma io non la conoscevo ancora. Diciamo che questo argomento ha sollevato anche discussioni sulla laicità, certo. E sul rapporto tra religione e politica. Giusto. Qual è la tua opinione o il tuo pensiero, considerando comunque l'Italia un paese laico? Certo, ma allora la laicità è qualcosa, è un valore della nostra democrazia. Sì. E quindi è un principio fondamentale che deve essere rispettato e tenuto in vigore. Purtroppo gli amici dell'università della statale se ne sono infischiati, perché hanno coinvolto testi sacri islamici. Il Corano, per esempio, è anticostituzionale. Io voglio ricordare, se mi è lecito con CRC, che il Corano è un libro anticostituzionale. Il mio nome è Francesco Maggio, scrivetevelo bene su un foglietto. Sto dichiarando che il Corano è invendibile in tutte le librerie. Se io dovessi scrivere un libro dove io scrivo che Dio mi ha ispirato, di uccidere i musulmani, tutti quelli che non sono cristiani nati di nuovo, secondo te io avrei vita facile? Cosa fanno le istituzioni? Lo sai mi già. Blindano, minimo cioè, mi blindano. Lo sai già. Non solo si distanno, mi blindano, mi mettono in galera. Sì. E forse sarò passato anche sulla sede elettrica in Italia. Noi abbiamo un Corano a 70 versetti, io lo leggo anche in arabo il Corano, quindi io sto attento. Il Corano contiene 70 versetti in arabo che dice di uccidere, ammazzare a vista tutti quelli che non sono musulmani. Ammazzarli. Questa si chiama pulizia etnica, pulizia religiosa. Sì, questo si chiama un crimine, è l'articolo, c'è il codice penale, l'articolo 604 del codice penale, recita l'imprigionamento di persone che istigano al razzismo teologico, e all'omicidio. Il Corano incita le persone a uccidere indiscriminatamente. Oggi non lo fanno, ma alcune volte sì, vediamo delle persone ammazzate in mezzo alla strada, sgozzate in mezzo alla strada. Quelli non sono dei pazzi. Il Corano recita queste cose qua. Quindi io direi agli studenti, leggetevi la Bibbia durante l'ora d'aria, invece che leggere il Corano, perché la Bibbia, nell'Antico Testamento ci sono dei punti di riferimento dove le persone amano Elia discorrere, fare delle ipotesi, dei dibattiti, dove c'erano dei massacri orditi dal popolo di Israele, ma qui siamo nell'Antico Testamento. Ma nel Nuovo Testamento non c'è nulla, noi viviamo nel Nuovo Testamento, non viviamo nell'Antico Testamento. Certo. Quindi, cari ragazzi universitari, io sono un po' preoccupato per voi, veramente preoccupato per voi. Leggetevi il Nuovo Testamento invece del Corano. Il Corano, voi che siete naturalmente osannate per il laicismo, leggete bene il Corano. Tutte le parole che voi leggete, combattete in arabo e uccidete, perché la traduzione è stata modificata in italiano. Ogni volta che c'è fight unbelievers, combattete i miscredenti. Quindi non sta parlando dei cristiani o dei giudei, sta parlando di tutti coloro che non sono musulmani. Fight the unbelievers, combattete i miscredenti. Lo dice in tedesco, lo dice anche in francese. Quindi i miscredenti sono i non musulmani. Hai provato a discutere questo con qualcuno di lo loro? Lo sto facendo adesso, ne ho parlato in Senato. Okay. Io sono in Senato e ho parlato di questi versetti. No, non ho parlato di questi versetti, ho parlato sul fatto che la preghiera, la surat al-Fetiha, scusa, sembra che parlo foggiano. Sì, sembra foggiano. No, perché mi infervono in arabo. Okay. La surat di apertura, il primo capitolo del Corano, recita: un razzismo è un pregiudizio religioso continuo. Le cinque preghiere musulmane al giorno, alla fine della preghiera d'apertura, la surat d'apertura, si chiama così, surat d'apertura, recita: grazie Allah che noi siamo i migliori di tutti, non come quelli che si sono sviati, che sono gli ebrei, e di quelli che sono caduti nella tua condanna, che sono i cristiani. Questo si chiama razzismo, pregiudizio, e quando leggo il Corano, leggo il commentario di Ucoi, dalla penna di Hamza Roberto Piccardo, l'editore del Corano Ucoi. Sto facendo nomi veri io qua. Voi certo. dovete tremare, amici miei, capito? Dovete tremare qui in ascolto. Hamza Roberto Piccardo, nel commentario dedicato alla sura di apertura, dice: questi sono gli ebrei cristiani. L'oggetto di questo pregiudizio sono ebrei cristiani. Soltanto per il pregiudizio questo Corano non può essere venduto. Soltanto perché questo aliena i nostri vicini musulmani da noi, li aliena, perché quando io quando i musulmani pregano questa preghiera dal quando sono bambini, appena nati, dai 7 anni in poi, perché devono essere instillati in questi bambini queste parole di pregiudizio religioso continuamente contro i cristiani e gli ebrei qui in Italia? Perché? Questo significa religione della pace? No, questa è religione di odio, religione di pregiudizio. Allora, questi pregiudizi devono essere stoppati, fermati nelle moschee e nelle scuole coraniche. Io di queste cose qui ho in mente di parlarne sul piano politico prossimamente, perché non si può dire che ci vogliamo bene, che il dialogo con l'Islam deve essere il vantaggio di tutti, quando tu semini, però, amico imam, amico professore musulmano, state seminando odio, instillando odio nei nostri bambini, perché i bambini musulmani non sono solo vostri figli, sono i nostri figli, sono anche i nostri figli, perché sono cresciuti e nati qua. Non siete voi che avete diritto sui vostri bambini, siamo noi che abbiamo diritto eventualmente con le nostre istituzioni sui vostri bambini. E se fosse per me, io vieterei l'ora felice, cioè quella che noi chiamiamo l'ora felice, quella che è l'ora di religione nelle sinagoghe, nelle madrasa, la vieterei in Italia, se prima non abbiamo delle istituzioni presenti durante le lezioni che voi fate a questi bambini nati da voi, ma sono figli italiani, sono figli del tricolore, e quindi noi vorremmo vedere anche le istituzioni come me, invitatemi durante la lezione, io sono un docente, sono autorizzato, invitatemi in classe durante le madrasa, voglio sentire cosa insegnate a questi bambini da 7 anni e se mi insegnate loro questa preghiera, se state dicendo anche a loro, come dice Hamza Roberto Piccardo nel Corano, che questi sono musulmani e cristiani. Questo è pregiudizio religioso instillato che produce soltanto odio. Allora, amici, io vorrei essere, sono molto, mi infervoro, Elia, lo vedo, questa lo è ingiustizia, vedo. È ingiustizia, e noi siamo chiamati qui a dichiarare anche le ingiustizie. Certo. Perché non ci spieghiamo perché, nonostante i buoni sforzi di tanti imam moderati, comunque ci sono persone che si svegliano la mattina e vanno a ammazzare un professore che esce dalla scuola. Perché? Allora, il Corano non solo contiene 70 versetti che incita alla violenza contro i cristiani, a ucciderli. Dice così. In arabo il versetto dice katala. Katala vuol dire uccidere. La parola per combattete in arabo è sinonimo di uccidere. Addirittura la cultura, questa è la cultura proprio del linguaggio arabo. Noi abbiamo due parole, combattere in arabo, se tu leggi in italiano il Corano in arabo, chiunque legge il Corano in italiano, volevo dire, scusate, combattere può essere combattere sul piano delle idee. Ma sì, certo. Combattere sul piano degli argomenti. Ideologico. Combattere cioè sul piano delle istituzioni. Sì, sì. Combattere sul piano politico. Sì. Va benissimo, ma non è questo. È uccidere. La parola combattete si traduce in arabo uccidere. E solo per l'articolo 604 del codice, io avoco l'articolo 604 del codice penale, non solo la Costituzione, è proibito proibire la vendita di un libro. E allora cosa facciamo, Francesco Maggio, con questo libro, il Corano? Dobbiamo proibirlo veramente nelle librerie secolari? Non si può proibire il Corano, ma i nostri imam, i nostri professori, i nostri ulama, i nostri sheikh, i nostri teologi musulmani devono fare una dichiarazione d'intesa con lo Stato che questi versetti, 70 versetti del Corano, devono essere considerati astorici, perché sono scritti in un contesto storico diverso, sono scritti in Arabia Saudita nel Medioevo, e qua non parliamo del Medioevo fiorentino, parliamo del Medioevo arabo, certo, che è ancora peggio, certo, a quel tempo lì. Quindi noi non ci identifichiamo con il libro del Corano, perché siamo occidentali, noi abbiamo dei valori della democrazia, della libertà di pensiero, libertà di parola, libertà di convertirsi a qualunque religione anche, ma questo il Corano lo proibisce. Il Corano ha dei versetti che minaccia la pena di morte per quelli che cambiano religione. Quindi altro che l'Islam è l'unica ideologia che non ha mai firmato, tutti i paesi musulmani non hanno mai firmato i diritti della Carta dell'Uomo, che è stata stipulata dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 1947 circa. 47, sì. Non hanno mai firmato questa carta qui, non hanno mai firmato. Per me, allora, anche gli immigrati che non sono stati educati a rispettare la Carta dei Valori Umani devono essere obbligatoriamente, per avere la nazionalità italiana, devono passare attraverso questa educazione qua. Perché se no rimangono naturalmente orientati a no rispetto per quello, per coloro che sono naturalmente non sono contrari all'Islam. I musulmani, dopo la Carta dei Diritti dell'Uomo, la Carta dei Diritti dell'Uomo, hanno fatto la Carta dei Diritti dell'Uomo Musulmano. Non va bene questo. Io sono aperto ai professori, venite da me, non chiedete a Elia spiegazioni, venite Elia, li manderei da me, i miei amici professori, certo. Parliamo, ci sediamo, una bella pizza all'italiana e ne discutiamo, e poi magari fisseremo anche degli appuntamenti importanti con l'istituzione, perché qui bisogna fare una carta seria dove si bandisce il Corano, si bandiscono tutti i versetti del Corano che incitano alla violenza e si bandiscono tutti i versetti del Corano che insultano gli ebrei. Non va bene, il Corano non va bene. Noi abbiamo bandito Mein Kampf di Hitler. Non trovi Mein Kampf nelle librerie. Il Corano è alla stregua di Mein Kampf, è la stessa cosa. Io ho scaricato da internet Mein Kampf, sì, su internet, sì, tutto, sì. Chiunque lo può scaricare, okay. Ho dato un'occhiata per curiosità, 1000 pagine, non l'ho letto, ho letto soltanto una pagina, due pagine, però sono andato con l'indice analitico per vedere quali parole contiene questo testo, non c'è nulla, c'è qualche riferimento, pregiudizio contro gli ebrei, sì. Ok. Ma come lo dice nel Corano? Mai. Mai. Francesco, ascolta, abbiamo solo pochi minuti, quindi le altre... Cioè, io sono il volto storico di Meta, ma io sono, sì, anche... Sono orientato a queste cose qui, a discuterle, certo, e a sviscerarle. Sarebbe molto opportuno che ci fosse un'apertura nelle università, dove ovviamente ci possa essere... un dialogo interreligioso, certo. e che ci possano essere le varie persone per discutere e non parlare esclusivamente del Corano. Però quello che ti volevo chiedere in questi pochi minuti, perché ne abbiamo solo forse uno, in tutti questi anni che tu ti stai occupando ovviamente dell'Islam e questa tua passione, perché si vede quanto sei appassionato nel discutere, nel voler portare proprio questi argomenti, nel far capire. Secondo te quanto è cambiata la situazione da quando tu hai iniziato ad oggi? È peggiorata? Molto? No? Uguale? Allora, io credo che la cosa è migliorata, okay, perché i musulmani che abbiamo oggi, sì, sul nostro territorio, la nuova generazione ha due identità, italiana, sì, e islamica. Islamica. Sono persone istruite, ok, li stimo, sì, sono persone che hanno sale in zucca, abbiamo dei laureati che hanno occupato posti come medici, okay, primari, vero, vero, sono avvocati, musulmani, sì, non sì, c'è sì, solo il macellaio musulmano, ci sono anche avvocati, non c'è soltanto... Ci sono molte persone che tu stimi, non lo c'è stai soltanto l'imbianchino tu. Musulmano, c'è anche, certo, il ragioniere musulmano, sì, quindi sono persone abituate ad analizzare le cose. Perfetto. E noi dobbiamo rimettere in campo, dobbiamo finire il provincialismo di portare il Vangelo come facevamo con i loro padri. Okay. Credi in Gesù e sarai salvato. Okay. Non è sufficiente. Sì. Dobbiamo dire, dimostrami che quello che tu credi è storia fondata. Okay. Se l'Islam è realmente, la storia dell'Islam che tu conosci è realmente accaduta. Perché se l'Islam che tu conosci è soltanto una mitologia, dai testi storici dell'Islam, certo, non testi storici scritti da occidentali contro l'Islam, no, testi storici, e ascoltiamo o leggiamo le testimonianze degli studiosi musulmani, cosa hanno detto contrariamente alla storia dell'Islam, Maometto non è realmente vissuto, o ci sono forti dubbi fondati che lui sia stato creato dai movimenti politici dei califfi. Dei califfi e delle dinastie omayyedi e delle dinastie anche, dalle dinastie. perché loro ora sono abituati a ragionare. Allora, quando loro dicono che Gesù non è morto sulla croce, che Dio non può farsi uomo, sono episodi storici che sono accaduti. Certo. Questo si chiama, in termini accademici, revisionismo storico. Che paroloni, ma che paroloni. Ma loro sono soltanto... stanno soltanto dicendo che ci sono le emozioni, ma si chiama revisionismo storico. Okay. Revisionismo storico mi va bene, siamo in democrazia. Facciamo revisionismo storico anche dell'Islam, allora. Infatti. Allora, se Gesù non è morto sulla croce ne possiamo discutere, ma se Maometto sia realmente vissuto o non sia realmente vissuto, allora abbiamo lo stesso diritto, siamo sul revisionismo storico anche noi. Entrambi. Noi con i giovani musulmani dobbiamo parlare di questi contenuti. Il mio libro, La verità sotto attacco, non sto facendo pubblicità, ma sono proprio accuratamente dentro questo argomento, ne parlo anche su YouTube. Sì. Per esempio su YouTube ho avuto 2000 visualizzazioni in 2 giorni, sul titolo Le prove della non esistenza di Maometto. Ho avuto 2000 visualizzazioni in 2 giorni, 1000 visualizzazioni al giorno. Ci sono nuovi paradigmi. Ok. Dobbiamo parlare di questo. Certo. Con i nostri amici musulmani giovani, non andati dai settantenni, perché non potrebbero reggere un argomento come questo qua e potrebbero offendersi, ma andate dai vostri giovani coetanei musulmani all'università e dite loro: dimostrami che Maometto è realmente vissuto. Okay. Perché se non è realmente vissuto deve orientare a Cristo. Ok, abbiamo concluso. Abbiamo concluso. Okay. Francesco, sei stato come sempre accorato nel doverlo raccontare, è andato benissimo, veramente con il cuore, proprio si sente come lui ne parla. Andate a leggere, anzi andate a vedere quello che tu ovviamente hai appena menzionato, sì, no? Su YouTube, ma... e così potete rendervi conto, in effetti anche possono anche discuterne con te, no? Ma c'è una chat su YouTube. Perfetto. Interminabile. Perfetto, fantastico. Ti cercano come? Scuola Sky. Ok. Scritto normalmente Sky, ok? Sky su YouTube, e poi la trasmissione è Le prove della non esistenza di Maometto. Ok, ed ora siamo arrivati alla conclusione, anche un po' di più. Vi voglio ricordare il numero di telefono, che è 338-522-3006. Ve lo ripeto, 338-522-3006. A questo numero potete scrivere un SMS oppure un WhatsApp, oppure meglio ancora telefonare. E comunque, se avete delle domande, qualunque cosa da chiedere inerente a quello che avete ascoltato, sì. Noi vi possiamo mettere in contatto con, certo, Francesco Maggio. Grazie per essere stati con noi in questo tempo. Grazie Francesco. Grazie anche a voi, amici ascoltatori. Un abbraccio a tutti e vi do l'appuntamento alla prossima. Ciao a tutti.